Bentornati amici, questo podcast di Radio Italy ritorna con un'intervista a Furio, che è l'autore del blog saporedicina.it, un valido portale per chi vuole conoscere il mondo della Cina, per viverci o magari per farci solo un giretto. Vi ricordo che la mail di Radio Italy è radioitaly@outlook.com. Io sono Rocco Carbonaro, meglio conosciuto come Rocco Lao Shi, in cinese Lao Shi significa insegnante maestro, e sono anche su Facebook. Raggiungerò Furio grazie a Skype e proviamo un pochino. Shanghai chiama Londra, dove si trova adesso Furio. Ciao Furio! Ciao, ciao Rocco! Come va? Bene, bene. Allora, ma chi è Furio? È un nickname, giusto? Mi chiamo Ivan, però per ragioni storiche diciamo che su Sapore di Cina ho sempre utilizzato Furio, perché era iniziata così. E poi, non so, non mi andava di cambiarlo, anche perché poi chi ci legge non capirà più niente, probabilmente. Furio, tu sei un po' il mattatore, la mente di Sapore di Cina. Spiegami un pochino più dettagliatamente che cos'è questo blog. Diciamo che Sapore di Cina era nato come un blog personale alla fine del 2011 e poi si è evoluto, diciamo, più su un tipo di sito che, diciamo, vuole aiutare chiunque vada in Cina per studiare, lavorare, viaggiare, o anche solo chi magari vuole studiare il cinese dall'Italia, ecco. Quindi ultimamente abbiamo scritto tanti articoli pratici. Mi sembra che tu gestisca anche un altro blog che si chiama nonvogliolavorare.it, o mi sbaglio? No, non ti sbagli. Anche se in effetti è circa un anno che non scrivo su NVL, quindi è un po' fermo, ecco. Comunque sono, devo dire, tutte e due molto carini e interessanti per tutti quelli che vogliono conoscere il mondo della Cina, che amano viaggiare, che vogliono espatriare. E senti un po', chi sono i tuoi lettori? Diciamo che i lettori dei due siti sono diversi, nel senso che su NVL si parla di più, diciamo, di lifestyle, lavoro, comunque viaggiare in generale, quindi penso che i lettori siano abbastanza random, ecco, ognuno ci è arrivato per un motivo diverso, mentre penso che tutti quelli che leggono Sapore di Cina siano comunque interessati alla Cina, o perché ci sono già stati, o perché ci vivono attualmente, o perché stanno pensando di andarci molto presto. Secondo te, perché questi giovani, tanti giovani italiani, decidono di lasciare l'Italia per andare all'estero? Io penso che, insomma, non sono così pessimista come tanti, nel senso che io penso che tanti ragazzi che lasciano l'Italia lo fanno come me, non perché non avevano opportunità in Italia, bensì perché comunque erano o sono interessati a fare un'esperienza all'estero, a vedere il mondo, a imparare le lingue, ecco. Poi è ovvio che tanti invece lo fanno anche perché magari non vedono troppe possibilità in Italia e allora decidono di spostarsi, okay. I motivi sono questi. E tu, il primo viaggio dove l'hai fatto? Ho letto dal tuo blog che attraverso l'Erasmus sei andato in Francia. Raccontaci un po' questa storia. Io devo ringraziare l'Erasmus, nel senso che sino alla veneranda età di 23 anni praticamente non ero mai uscito dalla Sardegna, a parte qualche matrimonio di parenti e la gita di quarta liceo dove andiamo a Firenze. E sull'Erasmus, diciamo che quando sono partito le prime settimane sono state molto dure, perché io ho studiato, il mio background era quello di aver studiato francese sia alle medie che alle superiori, però in una maniera molto scolastica, che non avevo forse mai parlato in francese e non sapevo assolutamente una parola d'inglese. Quindi quando sono arrivato in Francia è stato uno shock, perché non potevo comunicare basicamente con nessuno. E inoltre non sapevo viaggiare, quindi appena arrivato all'aeroporto di Parigi non riuscivo neanche a capacitarmi di come prendere la metro, insomma sapevo che bisognava inserire questo bigliettino, non c'erano ancora i bigliettini al tempo, non c'erano le supercard magnetiche che ci sono oggi, e quindi non riuscivo neanche ad entrare nella metro, quindi però diciamo che a parte con i primi giorni un po' così drammatici, poi insomma uno si abitua e impara. Je n'ai pas peur de la route, froid ou faut qu'on y goûte, des méandres creux des rangs, et tout ira bien là. Le vent l'emportera. Insomma, ti sei innamorato della Francia, ti è piaciuta la Francia? Nel senso, perché poi quando fai l'Erasmus, non so se tu l'hai fatto, insomma, un'esperienza che diciamo che trascende un po' il paese, che comunque io penso che sia simile un po' per tutti, nel senso che ci si ritrova tra ragazzi che appunto stanno vivendo la stessa esperienza, quindi sempre molto divertente e molto interessante. Devo dire che poi io sono rimasto altri 3-4 anni lì nel nord della Francia e diciamo che un po' mi hanno fregato, ecco, perché mi sembra così bello quando ero Erasmus, mentre poi quando invece magari lavori e vivi là è più complicato, soprattutto per il clima, perché io ho questa teoria che il clima influenzi la gente e quindi li trovavo un po' freddi, ecco. Senti, tu sei stato anche a Shanghai e trovi qualche affinità con Shanghai, le differenze, perché Shanghai è definita sempre la Parigi d'Oriente, tu che ne pensi, che hai vissuto in tutte le città? Ma a me sembra più marketing questo qua della Parigi d'Oriente, nel senso che io tra i francesi e i cinesi ci vedo ben poche caratteristiche in comune, anzi io dico sempre che i cinesi sono gli italiani d'Asia, o al contrario che gli italiani sono i cinesi d'Europa. Perché? Perché la Cina è un casino, nel senso un casino, quando dico un casino dico nelle strade, il traffico eccetera, e poi anche loro sono molto attaccati diciamo alla famiglia e al cibo, esattamente come gli italiani. Comunque i francesi hanno lasciato una bella impronta qui a Shanghai, come architettura c'è la Francia. Sì, come insomma, se non sbaglio, Whitehall Road è la vecchia concessione francese, quindi sì, ci hanno lasciato un sacco di panetterie, ad esempio. Che ricordo che a comprare, se si vuole comprare il pane a Shanghai, normalmente si va dai francesi. Ecco. Esatto. E secondo te vale la pena ancora emigrare verso la Cina? Tu che ci sei stato, che hai visto e hai vissuto, che ne pensi? Ma io penso che di sì, nel senso che la Cina è cambiata tanto negli altri anni, non è più forse il far est di un tempo, quando era molto facile trovare delle opportunità come straniero in Cina, soprattutto come occidentale in Cina, dove magari se eri un expat ti pagavano vari benefits che oggi invece ti puoi scordare eccetera, quindi non, diciamo che non ci sono più queste praterie, però ci sono ancora, diciamo, tantissime opportunità che magari qui in Europa non trovi più. E quindi sì, secondo me la Cina vale ancora la pena, e ancora insomma tanto da dire, tanto ne avrà nei prossimi anni. Allora ti aspettiamo, se vuoi tornare. No, ma senso, io adesso sto abitando a Londra, però tanti dei miei interessi sono ancora in Cina, nel senso che il mio lavoro alla fine riguarda la Cina, perché noi abbiamo una, qui a Londra abbiamo una un'azienda di consulenza per aziende, diciamo, europee e americane che importano dalla Cina, quindi io son sempre molto a contatto con la realtà cinese, ci tornerò sicuramente tante volte, ecco, non so se a viverci, mai dire mai, però sì, insomma, anzi probabilmente ci tornerò quest'anno. Il cinese come l'hai imparato? Come l'ho imparato? Niente, avevo fatto all'inizio, io ero arrivato in Cina con una fellowship di un programma europeo e avevamo fatto un corso di circa 5 mesi alla BYU di Pechino, che però era stato un corso, diciamo, non era andato benissimo, nel senso che secondo me avevano fatto un errore, che era stato quello di metterci in classi solo con occidentali, quindi tipo io ero in classe con magari un inglese, due spagnoli, un italiano e due francesi, e parlavo tutte le loro lingue, e alla fine il cinese parlavi ben poco. Ecco, secondo me il mio consiglio per chi va a studiare in Cina è quello di andare nei corsi classici, quelli tradizionali, dove normalmente ti trovi con tre siberiani, quattro coreani e due giapponesi che non parlano una parola di inglese, lì sì che lo impari più in fretta. Quindi come l'ho imparato? Io l'ho imparato soprattutto quando dopo 5 mesi mi sono trasferito a Hangzhou a lavorare e non conoscevo nessun occidentale, quindi lì sì che fai la famosa immersion, no? Sì, certo. Quindi sei partito per la Francia, poi la Cina e adesso sei in Inghilterra. E sono curioso di sapere qual è l'impressione degli inglesi riguardo agli italiani. Questa è una bella domanda, anche per due motivi. Primo, io non faccio troppo caso al fatto di essere italiano, nel senso non metto il pedo sul fatto che io sono italiano e tu sei di là, eccetera. E poi secondo, perché a Londra inglesi ne vedi pochi, quindi diciamo che non ne frequento tantissimi. Secondo me non c'è... E in generale, gli stranieri come ci vedono? Secondo me questo è un discorso che si può fare soprattutto con i nostri vicini di casa, nel senso coi francesi, dove c'è sempre comunque questa specie di rivalità tra italiani e francesi, che per tutto quello che è il mangiare, per tutto quello che è la moda, o negli ultimi anni anche il calcio. Ricordo, a me hanno rinfacciato la famosa storia di Materazzi e Zidane per anni e anni, questa storia qua. Che io ridevo, perché poi alla fine abbiamo vinto noi, però questa cosa insomma era stata presa quasi come un'offesa nazionale. Per il resto anche in Cina io non penso che la gente facesse troppo caso al fatto che io fossi italiano o tedesco o francese. Che fossi western sì, che fossi un Lawai sì, questo era chiaro, che la gente si, diciamo, le dava tanta importanza a sto fatto qua, però non tanto al fatto che io fossi italiano, appunto, spagnolo o inglese, ecco. E anch'io sono figlio di emigranti, come tanti tanti italiani che vanno all'estero, e mi ricordo che i miei genitori, quando andavano all'estero, facevano scorte di viveri, formaggi, salame, eccetera. E un po' lo faccio anche io quando vengo qua in Cina, se non che... come dire, però qui ci bloccano all'aeroporto e non ci fanno importare queste cose. Tu che fai quando vai all'estero? Ti porti le cose da mangiare? No, io parto sempre leggero. Quando mi sono trasferito qui a Londra sono partito che avevo in totale 15 kg, nel senso che quasi non avevo neanche vestiti. E per il cibo, non so, io mi sono un po' abituato a farne a meno. Non è che non mi piacciono i formaggi, eccetera, però comunque non mi mancano più di tanto, ecco. Poi mi ricordo che quando portai il formaggio in Cina fu disastroso, perché i cinesi non riescono. La maggior parte dei cinesi, siccome non sono abituati a questo sapore, lo trovano proprio disgustoso il formaggio. Non so se hai notato questa cosa qua. Sì, sì, sì. E cosa ti manca della tua Sardegna? Ah, della Sardegna tante cose, soprattutto la cosa che mi manca di più forse è il sole. Il sole, poi ovviamente gli amici, la famiglia, insomma niente speciale. Il mare no, io non sono un personaggio da spiaggia, quindi quello diciamo che non mi manca più di tanto. Mi manca il sole e il vento, ecco. Il sole e il vento. Secondo te, quindi, fare un'esperienza di studio, di lavoro all'estero, che tipo di arricchimento può dare? Oh, totale, io lo renderei obbligatorio, nel senso una cosa come un'esperienza come l'Erasmus, secondo me dovrebbe essere nel curriculum di tutti, ecco, se fosse possibile. Che tipo di arricchimento ti dà? Ma prima di tutto ti fa vedere il mondo da una lente differente. Questo succede già quando diciamo ti sposti in Europa, poi se vai in Asia ancora molto di più. Io ricordo che primo anno, quando uscì, come un po' tutti gli italiani, mi lamentavo di tutto, e questo non va bene, quest'altro neanche, eccetera eccetera. Poi col tempo un po' ti adatti, un po' capisci anche che comunque le cose possono essere diverse, ma non per forza sono meglio o peggio. Quello che mi ha dato l'Asia è stato soprattutto quello di tentare di capire le persone prima di giudicarle. Perché? Perché loro normalmente hanno dei punti di vista molto differenti dai nostri, e non è detto che noi abbiamo ragione o loro abbiano ragione, è semplicemente una maniera diversa di percepire il mondo. C'è un libro molto bello sul tema, come si chiama? The Geography of Thoughts, la geografia dei pensieri, che però non penso sia stato tradotto in italiano. Praticamente c'è questa teoria, secondo me, insomma, è realtà, che dice che mentre noi occidentali ci focalizziamo più su un punto, un problema specifico, gli asiatici invece tendono sempre a considerare l'insieme. E a me rimane sempre questo esempio su questo libro qua, dove praticamente lui dice che fecero questo esperimento. Praticamente misero, non so, 10 asiatici e 10 occidentali, quindi europei e americani, a guardare lo stesso filmato di un acquario, e diciamo, dopo aver visto questo filmato, ognuno doveva dire rispondere, diciamo, un questionario. E ad esempio tutti gli europei e tutti gli americani avevano visto benissimo passare questo pescione gigante in mezzo allo schermo. Sì. Le cose che avevano notato gli asiatici invece erano altre, erano soprattutto le cose che andavano diciamo nello sfondo, negli angoli. E questo appunto è solo un esempio per dire che pensiamo in maniera differente. Ebbene sì, il mondo è bello perché è vario, e grazie a Dio ci sono pensieri diversi. Comunque, per terminare questa intervista, volevo chiederti se hai qualcosa in programma per Sapore di Cina, se ci sono delle sorprese, insomma, cosa avete in cantiere? No, al momento su Sapore di Cina ci stiamo occupando più che di sorprese, di tentare di renderlo qualcosa che sia migliore. Ad esempio abbiamo, diciamo, appena reclutato 3 scrittori nuovi che scriveranno più o meno ogni mese, e pensiamo di reclutarne altri in futuro. Quindi non è tanto il fatto di sorprese quanto quello di migliorare con quello che facciamo già, che più che altro è pubblicare, perché non è che facciamo più di tanto, ecco. Allora, io saluto i tuoi lettori del tuo blog e ti ringrazio veramente per aver chiacchierato con me stasera, e ti faccio i miei in bocca al lupo per tutto quello che desideri. Grazie a te per avermi invitato. Figurati. Ciao Furio, e grazie per essere stato a Radio Italy da Shanghai. Quando vieni, mi raccomando, fammi uno squillo. Va bene, ciao. Ciao Furio, salutami Londra. Ciao, non dico arrivederci, dico ciao. Mi sembra di restare vicino a te. Cari amici di Radio Italy, grazie per l'ascolto. Ciao, ciao. Se volete, potete mandare un'email a radioitaly@outlook.com. Ciao a tutti da Rocco Carbonaro. Solo a te, se ti saluto con un ciao, ciao.